un saluto a tutte e tutti. Questa volta vi voglio proporre un consiglio di lettura, o meglio vorrei prendere a pretesto questo libro di cui andremo a parlare stasera per cominciare un confronto con un autore che oggi è quasi dimenticato. C'è la tendenza a darne per scontata la conoscenza, se non in qualche caso addirittura archiviarne l'esistenza e catalogarla come metafisico, come decadente, come superato. Stiamo parlando di Max Stirner, filosofo tedesco nato a Bayreuth nel 1806, scomparso improvvisamente nel 1856. Stirner è uno pseudonimo perché il filosofo si chiamava Johann Caspar Schmidt. Come dicevo pochi istanti fa, l'occasione di parlare di Stirner è offerta da un libretto che appunto vi vado a presentare, si intitola Filosofia e deserto, la dimensione dell'unico nella filosofia di Johann Caspar Schmidt. L'autore è Claudio Lallai. Questo libro lo potete richiedere direttamente alle Ediciones del suo archivio biblioteca Tommaso Serra di Guasila in Sardegna. Vorrei partire dal titolo di quest'opera, Filosofia e deserto. Deserto a me non risulta essere un concetto riscontrabile nella quella che è l'opera principale di Stirner, ovvero L'unico e la sua proprietà del 1844. Invece Claudio Lallai, l'autore di questo libro, con deserto vuole indicare un appiglio nella teoria dell'unico. Non so se avete mai avuto provato ad aprire L'unico. L'unico è un libro, insomma, cui si sono ispirati nei decenni diverse compagne e compagni, e chi lo fa insomma si trova davanti un testo impegnativo, anche perché è scritto in un certo modo molto che deve molto all'epoca appunto in cui è uscito, la censura, l'influenza ancora forte della filosofia hegeliana. Quindi, l'espediente di questo concetto di deserto, noi abbiamo praticamente un appiglio che ci permette di afferrare queste considerazioni e lucubrazioni che si susseguono per decine e decine di pagine, forma talvolta ridondante e insomma anche dispersiva, e afferrarle e arrampicandosi raggiungere una veduta su tutte queste estensioni di contenziosi, di invettive con gli altri autori a lui contemporanei. Quello che Stirner ci vuole far vedere È il nostro essere posti uno accanto all'altro come dei deserti, dice Lallai, nel senso che nella nostra irriducibilità, nel nostro essere unici di ciascuno di noi, non ponendosi più alcun medio in senso metafisico, cioè nessuna stazione concettuale intermedia tra due entità, tra due soggetti, e quindi nessuna comunità, nessun essere comune, allo stesso tempo si apre, diciamo, per ciascuno la possibilità e insomma la disponibilità all'incontro con l'altro da sé, con che appunto anche l'altro può disporsi come unico. Silenzio, grazie. Franco Citti. Caro Carmelo, cioè, innanzitutto vorrei... Più vicino al microfono, grazie. Che mi vedresti qualche fila dietro, perché... Non capisco, non si sente, sai. Vorrei non essere in prima fila, cioè non vorrei che tu mi scambiassi con un giornalista. No, io ti conosco, ci conosciamo noi. Sono un tuo amico. Ma ci conosciamo noi, no? Sì. Come faccio a scambiarti con un giornalista? No, proprio per un giornalista poi, dai. No. Dai. Dunque, io la prima volta che ho sentito dire che tu eri un genio, si ben ricordi, era quando io e te stavamo facendo tipo re in Africa, in Marocco, e te lo disse proprio un altro grande genio che era Pasolini, che tu sei un genio. Oh, siccome la signorina prima mi ha anticipato un po', anche io prima di te ho 60 anni, non ho mai creduto né all'Italia. Ecco perché sono uno senza io, neanche io so niente, mi hanno distrutto come te, come hanno ammazzato Pasolini, come tu faranno. Sei accattone. Come faranno queste cose? Tu sei accattone, no. Oh, allora, loro sono gli accattoni e non lo sanno. No, tutto allora quello. Io volevo chiederti, la domanda è questa. Se io e te fossimo i primi due a non esserci, quante prime file porteremo con noi? Far proseliti? Sì, io voglio seguirti perché per me sei un genio, no, voglio essere come te. Io sono sicuro. Ma tu lo sei a tuo modo. Che verranno tutti con noi. Guarda, io dico una cosa: in questa terra al momento è necessario che ognuno di noi, proprio perché ecco, sia un deserto, senza limiti. Io è una vita e perciò non cerchi fratellanze, perché queste si. Quando esistono, cioè, ma io ti ho chiesto una mia vita, certo, una mia via di speranza insieme a te. Lo so. Che preferisci rimanere in due oppure che ci seguono gli altri? Ma siccome ognuno di noi è unico e esautora, e questo è il problema, no? Che esautora, anzi, l'importante non è esautorare l'altro, sapere che tu ci sei, ma ci può essere anche una terza persona che io sì, te non capito, conosciamo. Ma ti darebbero, cioè tu questo pensi che quelli che poi ci seguono sarebbero farsi. Sì. Tutti gli altri che poi ci seguono sarebbero farsi. Gli altri sono tutti falsi, Franco Citti. Questo volevo sapere. Tutti falsi. Sì. Soprattutto sono tanti, tutti. Lo so, non ti preoccupare. Si vergognano a dire che non sono. Sto in prima fila, hanno, lo capisci. Hanno ucciso non un certo sono. Pasolini. Appunto, loro sono degli assassini dilettanti, sono degli assassini scorreggioni. Questo sono questi signori qui, la maggior retta, parte dare chiaramente. Date retta, mi state pigliando degli insulti, ma non ce l'ha con voi. No, con la maggior parte ce l'ho con la massa. Vabbè, mi è indifferente. Tanto allora, sono sicuro che tu non avrai neanche la macchina come me, andremo a piedi. Come dici, Franco? Andremo a piedi. Ma stai tranquillo che non andremo, non si potrà nemmeno più d'andare, io credo. Ecco. Sì, un attimo, sì, però non credere che io, nei miei vuoti, io ti penso. Lo sai? Io ti penso. Dino Abba, prego. Ma non ti telefono. Non siamo, ci vediamo. Siamo rimasti in due, è chiaro, sì, che ma pensi non c'è, non c'è, ognuno è solo, non esiste, ma non solo con la sua solitudine. Monadi, questo, dice Cotroneo, questo, che ha letto Leibniz, non è monadi. Sì, monadi. Ma non è nemmeno una questione di essere delle monadi, si tratta proprio di non porsi più, si può essere solo dei capolavori, l'ho detto, si può essere anche dei capolavori mancati, ecco, anzi, capolavori e mancati. Un'altra cosa, quando, per me ti considero un genio, quello volevo dirti, per me sei anche pulito. Pulito? Pulito. Pulito. Sì. Ma perché? Certo. L'estetica e l'etica sono la stessa cosa. Quando dovessi fare il conto di tutta la merda che c'è qui dentro, non, certamente escluderei Franco Citti, stai tranquillo. Non vi preoccupate, no, lo dico per... Allora, noi qui stasera non possiamo illustrare a fondo tutta l'esposizione di quest'idea di filosofia e deserto che propone Claudio Lallai riguardo le dimensioni, diciamo, varie dimensioni dell'unico, nelle molteplici dimensioni dell'unico di Max Stirner. Però non possiamo fare a meno di precisare che l'affermazione che abbiamo fatto rispetto all'incontro tra unici non può prescindere da un passaggio attraverso una crisi radicale del concetto di essenza. Questo qua è un discorso che, se non viene compreso, rende, cioè, banale, ovvia, tutta l'esposizione, la proposta di Stirner. Quindi facciamo un passo a lato e consideriamo che tutta la tradizione metafisica moderna prospetta nel concetto di essenza una corrispondenza tra la realtà esistente e il che cos'è di quella realtà, cioè la sua caratteristica predominante. Questo implica che qualcosa che esiste nella realtà si pone anche come limite tra realtà e possibile, cioè tra una cosa che è ancora per il momento irreale. Quindi all'essenza è riservata sostanzialmente la dimensione del possibile, tutta diciamo sul polo del possibile, l'essenza. E proprio la critica di Stirner è, diciamo, fino in profondità si applica a questa concezione. In questa concezione è implicito, infatti, un carattere di sacralità, di separazione tra ciò che è e tra ciò che deve essere, e in cui, se guardiamo ancora meglio, è implicito anche un ordine, cioè una gerarchia, quindi un effetto di dominio. Allora si chiede Stirner cosa significa fare del comune, della società presa in astratto, o anche di una sua di una delle sue polarità, come può essere la classe, il campo privilegiato dell'agire. E la risposta è proprio questa, cioè che si tralascia, così facendo si tralascia un influsso, cioè un'attrazione fatale esercitata da un certo concetto di dominio, che non è affatto scontato né ovvio. Al contrario, va scandagliata proprio la pretesa ovvietà di questa situazione, e finalmente verrà alla luce l'intreccio tra libertà più alta e costrizione più profonda, caratteristico della dimensione originaria di tutto il vivente. Il vivente non può essere qualcosa, non è un'essenza, cioè non lo è. Al contrario, ha da essere quel che è e può soltanto questo. Il soggetto della tradizione metafisica moderna è, al contrario quindi di quel che appare ovviamente, un substrato costituito da un nucleo inafferrabile e da una componente risultante dal processo inarrestabile di ritorno al suo nulla nativo creatore. Comprendere l'unico, intenderlo come nuova e originale concezione di soggetto, significa scandagliarne le varie dimensioni e chiarire quale significato assume il concetto di ego proposto da Stirner. L'ego autentico presenta una sorta di nucleo noumenico, indefinito e indefinibile, il quale determina l'attività del pensare come processo isolato, fortemente introspettivo. Il luogo dell'esistenza dell'unico, nel quale il processo di autocoscienza trova inizio e fine, viene da me descritto attraverso la metafora del deserto. Rimando all'ultimo capitolo, dove tratterò il problema della comunicazione filosofica tra unici, nella quale si definirà il concetto di deserto in tutta la sua portata filosofica, qui mostrata in filigrana. Per Stirner, l'individualità non può darsi, non è definibile come sommatoria di tutte le qualità che la determinano. Egli è piuttosto ciò che risulta essere indefinibile e che, attraverso il processo esclusivo di ritorno al suo nulla creatore, si auto-reinventa continuamente. Ciò che l'unico conosce senza doverlo e poterlo predicare è la precondizione di ogni conoscenza, un io fluido, non cristallizzato in nessuna identità fissa, che è il soggetto di tutte le frasi. L'ego può essere inteso come un luogo desertico nel quale vive e si dà il processo di rivelarsi a se stessi come esseri liberi. Il processo è movimento, l'unica cosa che si può dire dell'io che nasce, vive e muore è che si modifica e muta continuamente cadendo nel silenzio ogni momento. L'unico, dice Stirner, non congela la propria volontà e non può accettare nessun tipo di fissazione statica. Sulla base di queste valutazioni possiamo comprendere meglio il perché dell'attacco irriducibile di Stirner alla morale e in generale a tutti gli assoluti. Queste idee fisse, ideali quali Dio, umanità, specie, Stato, eccetera, alienano l'io da se stesso, ponendosi come essenze che ne regolano e imbrigliano l'esistenza. Si pongono al di sopra di me e verso di loro devo dirigermi. La critica egoistica all'ipocrisia non è sostenuta da nessun principio morale di onestà o verità assoluta. Qualsiasi virtù potrebbe assumere valore solo nel momento in cui facilita la mia autoespressione. L'unicità diventa un valore, un concetto di autenticità fortemente legato alle peculiarità dell'io concreto, alla sua esperienza vissuta e vivente. Le stesse unioni egoistiche proposte da Stirner sono relazioni del tutto amorali, nelle quali non è presente nessun kantiano dovere, dove non c'è nessun obbligo. Sono unioni da conquistatori, da guerrieri. Questa sera stiamo presentando il libro di Claudio Lallai, Filosofia e deserto. E ci avviamo alla conclusione. Il deserto di cui si parla in questo libro è quindi quell'oscurità, quella solitudine che interrompe di colpo i processi, quelli che sono i processi di uniformazione, di appiattimento, della depersonalizzazione, che sono quei processi funzionali al mantenimento del dominio in questa società. Quando si verifica quell'esperienza del deserto, un'esperienza potremmo dire estatica, di uscita fuori da sé del soggetto, e al quale il soggetto ritorna con sembianze letteralmente inesprimibili. Potremmo, diciamo, aiutandoci, esprimendoci per assenza e per sottrazione, dire che qui, facendo anche riferimento alla poetica dello scrittore espressionista austriaco Georg Trakl, le caratteristiche negative di questa, di quel che resta di questo soggetto, sono caratteristiche di spettralità, di irrealtà, in termine tedesco è Wesenlos, cioè assenza di essenza. Wesen vuol dire, è una declinazione del verbo sein, quindi, diciamo, in tedesco c'è, emerge questo riferimento diretto alla critica, diciamo, radicale della metafisica tradizionale.